terzo anello. Damasco, con Vito Mancuso. Buonasera, sono Vito Mancuso. Insegno teologia presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San Raffaele di Milano e presentandomi a voi mi piace definirmi teologo laico. E dicendo teologo laico non intendo sottolineare lo stato civile, cioè il fatto che sono sposato e abbia due figli. Mi interessa piuttosto un'altra cosa, cioè affermare che ci sono due tipi di teologi. Ci sono quelli che rispondono alla Chiesa e quelli che rispondono al mondo. E i teologi che rispondono al mondo sono i teologi laici. In questa prospettiva si può essere un monaco ed essere laico. Io conosco monaci e monache che sono così. Viceversa, si può essere sposato ed essere clericale. E io conosco laici così. La differenza sta nell'interlocutore del proprio pensiero, cioè se è il mondo e l'esperienza del mondo, oppure se è la Chiesa e la dottrina. Ecco, io nel definirmi teologo laico intendo dire che il mio interlocutore, il mio azionista di riferimento, per usare questa terminologia forse poco adeguata ma spero chiara, è il mondo e la sua esperienza. È al cospetto del mondo che intendo parlare di Dio. Teologia laica significa due cose. La prima, riformulare il linguaggio della fede in modo tale che il mondo lo possa comprendere senza rifiutarlo a priori a causa di categorie sorpassate che 2000 anni di tradizione inevitabilmente portano con sé. Ma ancora di più, una teologia laica si differenzia da una teologia ecclesiale per il fine che intende raggiungere. Qual è questo fine? Non è quello di condurre gli uomini dentro la Chiesa, ma di rendere attenti gli uomini, le donne, alla dimensione della vita spirituale là dove si trovano e così come sono. Perché vedete, io credo nel valore salvifico del mondo. Non c'è bisogno della Chiesa per coltivare un'autentica dimensione spirituale e quindi raggiungere la salvezza. Quindi l'ultima parola è quella della coscienza personale. Adesso vorrei presentare il tema che in questi incontri di Damasco intendo svolgere. E questo tema lo possiamo definire come amore per il mondo. Io ho scelto questo tema perché lo ritengo il più terapeutico, il più capace di guarire, perché a mio avviso la malattia dell'anima contemporanea è proprio la sfiducia verso la vita, la sfiducia verso questa vita in questo mondo. E per questo, contro questa malattia, io voglio proporre questa medicina, cioè l'amore per questa vita in questo mondo. Alle spalle abbiamo una lunga tradizione nella quale l'amore per Dio era necessariamente contrapposto all'amore per il mondo. Mi viene in mente Sant'Agostino nella Città di Dio che diceva: due amori hanno costruito due città, l'amore di sé, spinto fino al disprezzo di Dio, ha costruito la città terrena, cioè il mondo, e l'amore di Dio fino al disprezzo di sé, la città celeste. E da qui, lungo tutta l'epoca cristiana, si è sviluppata una spiritualità come distacco, come disprezzo per il mondo. Ecco, vedete, se c'è una cosa nuova nella spiritualità del Novecento è che questo dualismo, Dio da una parte, mondo dall'altro, è apparso superabile. E le figure spirituali di cui vi voglio parlare in questi incontri hanno fatto dell'amore per Dio e dell'amore per il mondo il medesimo amore, senza dualismo, senza contrapposizione. Vi parlerò di tre grandi uomini e due grandi donne che hanno capovolto radicalmente il rapporto spirituale Dio e il mondo. Queste figure spirituali hanno costituito per me veramente una via di Damasco, nel senso che incontrarmi con loro ha significato cambiare anche la mia prospettiva di fare teologia, la mia prospettiva di credere, la mia spiritualità, anche la mia modalità di vedere il mondo. Ho compreso che l'amore per la terra e per il cielo vivono della medesima spinta, che è la medesima tensione dell'anima. E tutto ciò si chiama molto semplicemente amore per la vita, per la giustizia e la bellezza che la vita, se intesa bene, può produrre. Sono Vito Mancuso E ora proseguo nel tratteggiare quanto dicevo, cioè questa spiritualità contemporanea come amore per il mondo, presentando il primo dei cinque grandi personaggi di cui vi dicevo. Il primo è un russo, il suo nome è Pavel Florensky. E innanzitutto dico qualcosa di questo personaggio. Chi era? Fu innanzitutto un matematico, anche un fisico, un biologo, un ingegnere, e fu sull'altro versante del sapere un teologo, un filosofo dell'arte, e fu un sacerdote della Chiesa ortodossa russa. E proprio perché fu un sacerdote della Chiesa ortodossa, proprio per questo venne eliminato, venne fucilato nel 1937 in una località sconosciuta nei pressi di Leningrado. Ecco, nella persona di Florensky si assommano le due grandi dimensioni del sapere che oggi purtroppo sono scisse, cioè la dimensione scientifica da un lato e la dimensione spirituale dall'altra. Devo dire che se Florensky venne prima imprigionato, passò 5 anni, 1 anno in Siberia, 4 anni nel famigerato gulag delle isole Solovki nell'estremo nord del paese, nel Mar Bianco. Ecco, se venne prima imprigionato e poi eliminato, era perché il regime comunista del tempo non poteva concepire che in una grande intelligenza di tipo scientifico potesse al contempo albergare la fede. Ed è per questo che fu prima imprigionato, appunto, e poi eliminato. Ecco, per avere un'idea di che tipo era, ora ascoltiamo come descriveva se stesso in una lettera del 1917 a un amico, Sergei Bulgakov, che allora era professore di economia e poi divenne uno dei più grandi teologi del Novecento. Il luogo della mia nascita si è impresso per sempre nella mia anima. I monti del Caucaso e le montagne dell'Armenia sono come due diamanti. Tra le montagne tutto è strapieno di diversi animali, pesci, selvaggina, bestiame, velenosi insetti e serpenti, con uno strazio riempito di profumi. Uno spazio ampio e libero, la cui fama è legata ai cavalli del Karabakh, i migliori di tutto il Caucaso, e ai più coraggiosi briganti di tutta la Transcaucasia. E ora lei mi prenda, se può, così come sono, perché nello spazio ampio della mia anima non vi sono leggi. Io non voglio la legalità, non riesco ad apprezzarla, perché so di essere un brigante. Infatti non dovrei essere qui, seduto nel mio studio, ma dovrei andare a briglia sciolta nel cuore della notte. Dovrei galoppare senza meta e gareggiare con il vento su un cavallo del Karabakh. E questa corsa non conosce ostacoli. La mia steppa rispecchia la sconfinata libertà dell'azzurro celeste. Non mi turba nessun ostacolo costruito da mani d'uomo. Lo brucio, lo spacco, diventando di nuovo libero, lasciandomi portare dal soffio del vento. La vera spiritualità nasce anzitutto come contestazione, come ribellione, sfida, desiderio di libertà. Se il mondo, così come si presenta, appagasse tutti i desideri dell'interiorità umana, beh, gli uomini non avrebbero mai posto il divino nella loro coscienza, non avrebbero mai sentito il desiderio di un altro mondo, il regno dei cieli di cui parlava Gesù, o il regno delle idee di cui parlava Platone, o anche il regno dei fini di cui parlava Kant. Il desiderio di autonomia e di libertà dal mondo e dai suoi conformismi è essenziale al nascere della spiritualità. Direi che è il momento primigenio, è ciò che i Vangeli chiamano conversione, il che significa la verità di te stesso non te la consegna il conformismo sociale, il si dice, il pensiero comune, ma una sfera più alta dell'essere. Se la spiritualità non nasce da questo strappo rispetto alla massa mondana nella quale siamo dapprima immersi, se non è anzitutto bisogno di liberazione, Di correre libero sui cavalli del Karabakh, come diceva Florensky in quel brano meraviglioso che abbiamo ascoltato, beh, allora è un fenomeno del mondo come tanti altri, qualcosa di ideologico, di sociologico, di politico. E essere credenti significa appartenere a una delle tanti lobby che il mondo contiene. Ma posto questo primo momento, che è la ribellione rispetto al livello superficiale del mondo, ne deve seguire un altro, se si vuole salire verso la pienezza della vita. E quale sia questo momento, l'ascoltiamo dalla lettera che Florensky scrisse alla moglie, che si chiamava Anna, il 29 novembre 1935, mentre si trovava nel lager delle isole Solovki. Nel testo ascolteremo due frasi a mio avviso decisive, le voglio sottolineare già fin d'ora. La prima: cerca di cogliere tutte le occasioni che hai per gioire. E la seconda: io voglio avvicinare voi a me e me a voi. È vero, la gioia e l'unione con i nostri simili. Cara Anna, tra poco tempo si interromperanno i collegamenti marittimi e con ciò ci sarà un intervallo per la posta. Il lago è già gelato almeno da una settimana e, secondo gli usi locali, da 2 a 4 settimane dopo che il lago si congela finiscono i trasporti marittimi. Mi dispiace che non abbiate fatto provviste di verdura per l'inverno. Quando in una casa ci sono le patate si può star tranquilli, perché c'è la base di tutto. Io vorrei tanto che tu accumulassi più impressioni dell'arte e della natura e spendessi meno forze nelle faccende domestiche. Cerca di cogliere tutte le occasioni che hai per gioire. Proprio per questa ragione, nelle lettere ai figli, io racconto tutte le cose che ho sentito da testimoni diretti. Penso, infatti, che le impressioni di qualcuno che ha visto un fatto coi propri occhi siano molto più forti e vitali che le informazioni dei libri. Sappiate comunque che con questi racconti io voglio avvicinare voi a me e me a voi, anche quando non riesco a scrivere in maniera interessante. Sono Vito Mancuso e stiamo parlando di Pavel Florensky come di un grande testimone della spiritualità contemporanea, in particolare della spiritualità che supera il dualismo, la contrapposizione tra l'amore per Dio e l'amore per il mondo, ma fa vedere, fa toccare con mano e con le corde del cuore che l'amore per Dio e l'amore per il mondo sono la medesima cosa. Ecco, abbiamo visto i due primi momenti della vita spirituale. Il primo, il distacco dalle falsità che la società, che la vita nel mondo pure presenta, e il secondo, l'unione, l'unità con gli altri uomini, che come fonte della gioia più intensa e più pura per un essere umano. Ma c'è un terzo momento verso la pienezza della vita spirituale. E qual è? E questo consiste nell'amore per la verità. Io penso che talora la fede sia vissuta come rifugio, come sicurezza, come obbedienza. Per designare il vertice della fede si usa talora dire che la fede è cieca, cioè che si affida senza vedere nulla, senza pensare nulla. Ecco, contro questa maniera impoverente di vivere la fede, che non ha nulla a che fare con la dimensione dell'uomo che vuole cercare con profondità, con onestà, con rigore la verità, proprio Pavel Florensky racconta nella sua autobiografia che lui scrisse ai suoi figli, racconta che quando era bambino il nome di Dio, quando me lo ponevano quale limite estremo, era in grado di farmi arrabbiare tantissimo. Ecco, questo cosa vuol dire? Che la fede non è un assoluto, ma che la fede è relativa alla verità, è funzionale alla ricerca, all'incontro con la verità. Quando invece la fede assolutizza se stessa, quando non si comprende più come uno strumento, come una via verso qualcosa di più grande, allora si trasforma in ideologia, dogmatismo, e non ha nulla a che vedere con l'autentica spiritualità. Ecco, per me questo è veramente decisivo, cioè comprendere che l'amore per la verità è il principio fondamentale che sta alla base della vera fede. Ma perché? Ma perché la verità è la dimensione propria di Dio, è chiaro. È questo che gli uomini devono fare, esporre se stessi con onestà di fronte alla verità della vita. Per tutta la vita ho pensato a una sola cosa, al rinvenimento della verità nei fenomeni. Cercavo il fenomeno in cui la penetrabilità della carne del mondo era maggiore, in cui la scorza delle cose era più sottile e più chiara traluceva l'unità spirituale. Ma il fenomeno mi è sempre stato caro nella sua immediatezza, nella sua concretezza, con la sua carne e la sua anima. In ogni vena della sua carne io vedevo, volevo vedere, cercavo di vedere e credevo di poter vedere l'anima, la sola sostanza spirituale. E tanto salda era la mia convinzione che la carne non fosse solo carne, che non fosse solo materia inerte, solo esteriore, quanto lo era la convinzione opposta, e cioè che fosse impossibile, inutile e presuntuoso pensare di vedere quest'anima incorporea spogliata del suo velo simbolico. Io volevo vedere l'anima, ma volevo vederla incarnata. Qualcuno vorrà chiamarlo materialismo. Tutto sta però nel come interpretare la materia. Continuiamo in questo nostro incontro a parlare di Pavel Florensky. Pavel Florensky, come primo dei cinque testimoni di cui vi voglio presentare quali colonne, quali vere e proprie colonne della spiritualità del Novecento. Ecco, abbiamo detto amore per la verità. Amore per la verità vuol dire amore per la vita in tutte le sue dimensioni. Non c'è lo spirito da una parte e la materia dall'altra. Lo spirito quindi come qualcosa di buono e la materia come qualcosa di cattivo. Questa modalità dualista di pensare deve essere superata. C'è un'unica vita, c'è un unico mondo. E questo è il fenomeno che occorre considerare in tutti i suoi aspetti. Quindi abbracciare la verità in tutte le sue dimensioni. Ma a questo punto dobbiamo chiederci che cosa si ottiene quando si cerca la verità per se stessa. Cioè, quando si è aperti a ogni manifestazione del mondo, senza preconcetti di sorta, che cosa avviene? Ecco, io direi che è inevitabile allora avvertire la contraddizione. Perché nel mondo ci sono mille motivi per dire che la vita è bellissima, che ha un senso, che vale la pena di essere vissuta con gioia, ma vi sono altrettanti mille motivi per dire il contrario, che la vita è terribile, che non ha alcun senso, che non c'è alcun motivo per viverla con gioia. Ecco, qual è la prospettiva giusta, volendo cercare la verità della vita? Una cosa insegna Pavel Florensky, dicendo questo andiamo a toccare proprio il cardine, il cuore pulsante del pensiero di questo grande uomo. Dice che occorre coltivare l'arte di cogliere le contraddizioni. Non bisogna seppellirle, non bisogna fare di tutto per chiuderle, bisogna coltivare l'arte di coglierle. E lui, quando era nel lager delle isole Solovki, quando sapeva che presto l'avrebbero ucciso, lui mostra nell'epistolario a casa, quando scrive alla moglie, quando scrive ai figli, mostra esattamente questa contraddizione, perché ci sono frasi che invitano a cogliere la vita come dotata di un senso profondo e ve ne sono altre che affermano il contrario. Allora, noi dobbiamo comprendere una cosa, che l'arte di cogliere le contraddizioni significa, qui dico una parola importante, forse un po' complessa, ma insomma, significa essere al cospetto dell'antinomia. Questa è la parola decisiva, per la parola chiave del pensiero di Pavel Florensky, antinomia. Antinomia significa scontro tra due leggi, entrambe legittime. La contraddizione designa un vizio logico del pensiero, l'antinomia è ciò che si ottiene invece guardando la vita come un intero e scoprendo che in essa vi sono due leggi, sia la legge della vita sia la legge della morte, e bisogna tenerle insieme. Solitamente gli uomini scelgono o una o l'altra prospettiva perché tenerle insieme è lacerante, ma questa è la grandezza del pensiero di Pavel Florensky: occorre, al contrario, stare profondamente, ospitare entrambe queste due versioni. Ecco, io personalmente devo dire che quando ho incontrato questo pensatore straordinario che teorizza in pagine di un rigore speculativo esemplare questa possibilità di mantenere l'antinomia, quando ho incontrato questo ho scoperto che essere una persona che affida il proprio cuore alla dimensione della fede non significa mortificare in nulla la dimensione della vita. Anzi, lo spazio che si apre tra i due poli antinomici è quello lì, proprio esattamente lo spazio di Dio. La vita è infinitamente più ricca delle definizioni razionali e perciò nessuna formula può contenere tutta la pienezza della vita. Nessuna formula può sostituire la vita stessa nella sua creatività, nella sua capacità di produrre il nuovo ad ogni momento e in ogni luogo. Tesi e antitesi costituiscono insieme l'espressione della verità. In altre parole, la verità è antinomica e non può non essere tale. Dove non c'è antinomia, non c'è nemmeno la fede. Abbiamo visto l'antinomia. L'antinomia quale sigla della verità della vita. Ora c'è un quarto momento, che poi è il conclusivo, della proposta spirituale di Florensky. Noi ci mettiamo, sì, di fronte all'antinomia, dice lui. Le ospitiamo entrambe, vediamo che ci sono le cose, ma praticamente che cosa dobbiamo fare? Ecco, praticamente Florensky, e qui è ciò che lo contraddistingue in quanto portatore del messaggio cristiano, ma direi non solo cristiano, anche del platonico e così via, ecco, Florensky privilegia il polo positivo, insegnando cioè che bisogna avere dinanzi allo sguardo interiore l'armonia e bisogna cercare di realizzarla. E questa cosa Pavel Florensky la propone soprattutto ai figli, perché la grandezza della possibilità che noi abbiamo di incontrarlo è data precisamente dal fatto che questi suoi insegnamenti si danno come lettere che lui scriveva a casa, ai figli, alla moglie. E quindi si vede proprio il cuore del padre che si prende cuore dei suoi 5 figli, 3 maschi e 2 femmine, lui lontano, lui che sa che non tornerà a casa e che attraverso queste lettere che una volta alla settimana può scrivere, tenta di continuare la sua missione pedagogica, la sua missione di amore nei confronti dei figli. E lì allora tutti i suoi consigli concreti, che sono tutti indirizzati al bene, alla crescita spirituale. Direi che il concetto centrale che appare nelle lettere ai figli è quello del lavoro. Lui dice, anche lo studio è pensato così. Lui dice: cresci, studia, evolviti, impara a partecipare a quanto di meglio all'umanità. È questo il tuo obiettivo, scrive alla figlia. E a un'altra figlia: quanto vorrei che tu imparassi a trovare nel lavoro la soddisfazione e il cardine su cui si fissa tutta la vita. Ecco, il lavoro come luogo nel quale diventare uomini perfetti, uomini profondi. Vedete che non c'è più nessuna scissione, è lì, è nel lavoro che dobbiamo completare noi stessi. E non si tratta solo del lavoro esteriore, perché c'è un lavoro ancora più importante da fare, dice Florensky, e qual è? È quello su noi stessi, quello per giungere a conoscere e a governare veramente noi stessi. E infatti a un figlio lui scrive: tu devi trovare te stesso e per questo occorre il silenzio. Non per gli altri, ma per se stessi bisogna essere così. E non importa che cosa gli altri penseranno di voi. Essere e non apparire. Avere una disposizione d'animo chiara e trasparente. Una percezione integrale del mondo. E portare avanti un'idea disinteressata. Vivere così da poter dire nella vecchiaia di aver preso il meglio dalla vita. Di aver fatto proprie le cose più nobili e più belle del mondo. E di non aver macchiato la coscienza con le sozzure di cui si sporca la gente. E che una volta esaurita la passione lasciano un profondo disprezzo. Ti mando un grosso bacio, mia cara. Sono Vito Mancuso, spero di aver potuto offrire un breve accenno della grandezza spirituale enorme che è contenuta nella figura grandiosa di Pavel Florensky, il quale fu un matematico innanzitutto, fu uno scienziato, un ingegnere e insieme fu un filosofo, un teologo, uno storico dell'arte, ma soprattutto l'abbiamo incontrato come un uomo onesto che volle veramente avere a che fare con la pienezza della verità. Ecco, se c'è una cosa che appare a mio avviso straordinaria nel pensiero di Florensky è questo amore integrale per la verità della vita, da ospitare dentro di noi profondamente, senza alcuna ideologia, ospitare dentro di noi il polo positivo dell'esistenza e insieme anche il polo negativo, farli abitare dentro di noi. E insieme, ed è l'altra cosa che Florensky ci ha insegnato, è insieme avere profondamente lo sguardo interiore rivolto verso l'armonia e lottare perché il polo positivo possa essere quello che almeno per quanto riguarda noi stessi, almeno nella nostra piccola, nel nostro piccolo pezzo di mondo che è la nostra mente, che è il nostro corpo, possa avere il predominio. E se si fa questo, dice Florensky, si realizza il senso della vita, perché esattamente nel tentativo di realizzare l'armonia di fronte alle brutture del mondo consiste il senso ultimo dell'essere qui. E io ritengo che il vero senso della religione, della fede in Dio, è questo, è l'essere portatrice di una grande fiducia verso la vita, cioè che la vita non ti tradisce, che c'è un valore, c'è una sensatezza, c'è una grandezza, una bellezza che può scaturire dall'essere uomo. Ecco, la vera religione, la vera spiritualità è un inno esistenziale al senso della vita. In questa puntata abbiamo visto come questa è la specificità della spiritualità del Novecento. Non è da pensarsi la fede in Dio come distacco dal mondo per aderire a un altro mondo, ma come adesione, comunione profonda a questo mondo, lavorando sempre più per l'armonia e il bene di questo mondo. Ecco, io stesso posso dire che se sono credente, se vivo la mia dimensione spirituale esattamente per questo, per l'amore per il mondo, perché trovo da questa mia vocazione ideale energia per portare a mia volta energia positiva nel mondo, nelle cose che faccio, negli incontri con gli altri. Domani incontreremo la seconda delle figure spirituali di cui vi voglio parlare, che è una donna, che è Simone Weil, e che a sua volta ci farà comprendere come non vi è nessuna contrapposizione tra amore per Dio e amore per il mondo. A risentirci, a domani. Buona serata da Vito Mancuso. Damasco con Vito Mancuso. Letture di Carolina Zaccarini. Collaborazione di Maria Angela Spitella. A cura di Cettina Flaccavento. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Damasco al sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.